Componimento 113esimo del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Qui dove mezzo son, sennuccio mio, così ci fossi io intero e voi contento. Venni fuggendo la tempesta e il vento, c'hanno subito fatto il tempo rio. Qui son sicuro, e vovi dir perch'io, non come soglio il folgorar pavento, e perché mitigato, nonché spento, nemica trovo il mio ardente desio. Tosto che giunto all'amorosa reggia, vidi onde nacque l'aura dolce e pura, ch'acqueta l'aere e mette i tuoni in bando, amor nell'alma ov'ella signoreggia, raccese il foco e spense la paura. Che farrei dunque gli occhi suoi guardando? Fine del componimento.